Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrère. Traduzione di Francesco Bergamasco. Sesto. Vukovar, Sarajevo, 1991-1992. Sono seduti, chiusi nell'angolo retto formato da due tavoli di formica bruna, con alle spalle un muro cieco. Non si vedrà altro di quel luogo, che potrebbe essere un'aula scolastica, una mensa o un ufficio. Lei indossa un cappotto chiaro con un fazzoletto da contadina. Lui un soprabito scuro e una sciarpa, e ha posato la sciapca di montone rivoltato sul tavolo che ha davanti. Sembrano una coppia di pensionati. La telecamera non li abbandona. L'inquadratura cambia senza motivo, brevi zoom in avanti e indietro, brevi panoramiche, ma nessun controcampo. Non si vedono gli uomini seduti o in piedi di fronte a loro. Non si vede il volto dell'uomo fuori campo che, con voce rabbiosa e monocorde, accusa quei due vecchietti di aver vissuto nel lusso sfrenato, fatto morire di fame dei bambini, compiuto un genocidio a Timișoara. Dopo ogni raffica di accuse, l'invisibile pubblico ministero l'invita a rispondere. E l'uomo, senza smettere di tormentare la sciacca, risponde che lui non riconosce alcuna legittimità a quel tribunale. A tratti la moglie si infervora, comincia a discutere, e allora, per calmarla, l'uomo appoggia la propria mano sulla sua con un gesto familiare commovente. A tratti l'uomo guarda il suo orologio e se ne è desunto che aspettasse l'arrivo delle truppe che avrebbero dovuto liberarli. Ma le truppe non arrivano e dopo mezz'ora le riprese si interrompono. Ellissi. L'inquadratura successiva mostra i loro corpi insanguinati sul selciato di una strada o di un cortile, non si sa dove. La scena ha l'irrealtà di un incubo. Girata dalla televisione romena, è andata in onda sui canali francesi la sera del 26 dicembre 1989. Io l'ho vista sbalordito prima di partire per Praga a festeggiare l'ultimo dell'anno e Limonov al suo ritorno da Mosca. Aveva ritrovato e ricondotto con sé Natasha, che era dolce e carina come sempre dopo le sue fughe. Forse, vedendola, ha pensato alla loro relazione, al suo sogno di invecchiare e morire accanto a lei. Ma in ogni caso sono sicuro che ha pensato ai suoi genitori quando, appena è finita la trasmissione, ha scritto l'articolo da cui estrapolo queste righe. La videocassetta che doveva giustificare l'assassinio del capo di Stato romeno è la testimonianza vivida e tremenda dell'amore di una vecchia coppia. Un amore che si esprime attraverso sguardi e lievi pressioni sulle mani. Sia lui che lei erano indubbiamente colpevoli di qualcosa. È impossibile che il leader di una nazione non lo sia. Anche il più innocente ha, per forza di cose, firmato un decreto ignobile o non ha graziato qualcuno, lo esige il ruolo stesso di leader. Ma abbraccati, chiusi in un angolo di una stanza anonima, quei due, privati del sonno e aiutandosi reciprocamente ad affrontare la morte, ci hanno offerto, senza averla mai provata prima, una rappresentazione degna delle tragedie di Eschilo e Sofocle. Avviandosi insieme, semplici e maestosi, sulla strada per l'eternità, Elena e Nicolae Ceausescu hanno raggiunto le altre coppie di innamorati immortali della storia mondiale. Non mi sarei espresso con altrettanto lirismo e non consideravo quella coppia di grotteschi tiranni colpevole soltanto degli inevitabili errori connaturati all'esercizio del potere. Rammento tuttavia di essermi sentito anch'io orribilmente a disagio davanti a quella parodia di giustizia, a quella esecuzione sommaria, a quella messa in scena che voleva essere esemplare e mancava totalmente il suo obiettivo. Perché, di fatto, per quanti delitti potessero aver commesso gli imputati, in quel momento la dignità era dalla loro parte. Molto tempo dopo ho avvertito lo stesso disagio quando è stato catturato e poi impiccato Saddam Hussein. L'anno magico che aveva visto in tutta Europa umanisti come Václav Havel giungere al potere sull'onda di rivoluzioni non violente si chiudeva su una nota stridente. Nei mesi successivi sono arrivati dalla Romania altri strani segnali. La rivoluzione che aveva deposto i Ceausescu rivendicava migliaia di martiri massacrati in un ultimo sussulto dal regime agonizzante. Particolare emozione hanno destato le fosse comuni scoperte a Timișoara. 4.000 morti era la stima comunemente accettata. Liberación precisava 4.630. 70.000 rilanciava audacemente TF1. All'ora del tacchino e del foie gras, i telegiornali mostravano cadaveri scheletrici sporchi di terra e vestite con divise a righe, riesumati da buche scavate in tutta fretta. L'Europa tremava. Si discuteva se fosse il caso di inviare forze internazionali per porre fine al genocidio messo in atto dagli assassini ormai alle corde della Securitate, la polizia politica di Ceausescu. Si è poi scoperto però che, primo, i corpi, al massimo qualche decina, erano stati dissotterrati a uso e consumo delle telecamere nel cimitero di Timișoara, dove riposavano dopo essere morti di morte naturale. Secondo, gli assassini della Securitate, lungi dal perpetrare un genocidio suicida, si erano molto più saggiamente riciclati come dirigenti del Fronte di Salvezza Nazionale, il partito del nuovo presidente Ion Iliescu. Messo al bando e accusato di ogni delitto, il Partito Comunista si era limitato a cambiare nome e leader, ma era sempre forte. E le elezioni nel marzo del 1990 gli hanno assegnato una larga maggioranza, giustificando la crudele battuta secondo cui i romeni sono stati l'unico popolo della storia ad avere liberamente eletto un governo comunista. Tutto ciò era così appassionante che quella primavera sono andato in Romania per fare un servizio. Freud ha elaborato la nozione di Unheimliches, che viene in genere tradotta con il perturbante, per indicare l'impressione che ci capita di avere in sogno, e qualche volta anche da svegli, di trovarci di fronte a qualcosa che crediamo di conoscere, ma in realtà ci è del tutto estraneo. In inglese si direbbe alien. La Romania post-rivoluzionaria mi è parsa un'autentica Disneyland dell'Unheimliches, una Twilight Zone che voci inquietanti sostenevano fosse bucherellata come un groviera da una rete di gallerie sotterranee scavate dalla polizia segreta in cui la gente spariva. Una zona avvolta nella penombra, immobilizzata in una sorta di minaccioso crepuscolo, e poi decine di migliaia di cani randagi che si aggiravano per Bucarest contendendo il cibo a decine di migliaia di bambini, anche loro randagi. E i cani sembravano meno pericolosi del lupo in cui ogni uomo si trasforma per l'altro uomo. L'odio, il sospetto e la calunnia toglievano il respiro come un gas tossico. Tra i molti casi, ricordo quello dello scrittore insignito in quegli ultimi 20 anni di premi e cariche ufficiali, che mi sfiniva con la sua resistenza interiore al vituperato regime. E quando gli ho chiesto, premettendo che non intendevo affatto puntare l'indice contro di lui e che capivo perfettamente la quasi impossibilità di un atteggiamento diverso da quello, se altri invece non avessero resistito un po' meno interiormente, e se poteva citarmi qualcuno di loro. Pensavo ad alcuni oppositori dalla reputazione immacolata, gli omologhi locali di Sakharov. Mi ha guardato gravemente, prima di rispondere che preferiva tacerne i nomi, per discrezione e misericordia, poiché tutti sapevano che la Securitate reclutava i suoi più zelanti informatori tra tali presunti oppositori. Bene, fin qui siamo al primo livello di tortuosità. Ma al secondo le cose si complicano. Perché alcuni di quelli che la sanno lunga, a cui ho riferito questa risposta, mi hanno detto che ovviamente il mio interlocutore aveva ragione. Era noto a tutti, non era un mistero per nessuno, era un fatto di dominio pubblico. È giunto il momento di parlare di quelli che la sanno lunga. Io li ho conosciuti in Romania, dove hanno proliferato tra le macerie del comunismo, diplomatici, giornalisti, osservatori da tempo residenti nel paese si sono specializzati nel contraddire sistematicamente i discorsi ufficiali, gli stereotipi dei media e le illusioni dei benpensanti. Nemici giurati del politicamente corretto si divertono a sostenere che il KGB o la Securitate accusati dagli ingenui di essere fucine di tenebre e di morte, erano in realtà soltanto l'equivalente della nostra Enà. O che l'opera scientifica per la quale è stata conferita a Elena Ceausescu la laurea honoris causa da tutte le università del paese non era così mediocre come è stato detto, e che mediocri non erano neppure le poesie di Radovan Karadzic, che sta per fare la sua comparsa in questo libro. Quelli che la sanno lunga godevano della fiducia del nostro presidente Mitterrand, ne hanno influenzato la politica estera, e la Romania, dove ogni cosa era doppia, truccata, perfida, dove le fosse comuni che suscitavano l'indignata compassione dell'Occidente erano realmente una lugubre pagliacciata, era perfetta per diventare il loro Eldorado. Dopo aver passato 2 settimane ad affondare in quel pantano di menzogne e calunnie incrociate, ero pronto ad ascoltare il punto di vista di un vecchio romeno, tornato di recente nel suo paese dopo 30 anni di esilio in Francia, il quale non pretendeva affatto di saperla lunga e non era nemmeno politicamente corretto. Ha visto le loro facce per strada, ha visto le loro facce. La povertà, la sporcizia, d'accordo, ma quella diffidenza ostinata, quella meschinità, quel terrore cattivo dipinto sui volti. Il mio popolo non era così, glielo garantisco. Questo non è il mio popolo. Non capisco. Chi è questa gente? E nel tremito della sua voce si sentiva lo stesso orrore del protagonista dell'invasione degli ultracorpi, il vecchio film di fantascienza degli anni 50, quando scopre che gli uomini sono stati progressivamente sostituiti da extraterrestri e che tutti i suoi cari, in apparenza gli stessi di sempre, sono in realtà dei malefici mutanti. Verso la fine del mio soggiorno, il presidente Iliescu e il primo ministro Petre Roman hanno chiamato i lavoratori a mobilitarsi per difendere la democrazia, uso qui le virgolette, ma bisognerebbe usarle quasi per ogni parola, da un complotto neofascista non meno immaginario del genocidio perpetrato a Timișoara dalla Securitate. Non era affatto immaginario, invece, l'uso massiccio di autocarri e treni, appositamente noleggiati dal Fronte di Salvezza Nazionale, per far convergere su Bucarest il 14 giugno 1990 20.000 minatori infiammati da un ossessivo lavaggio del cervello e armati di sbarre di ferro, i quali per 2 giorni hanno seminato il terrore in città, aggredendo dapprima ogni persona sospetta di essere un oppositore, poi, siccome gli oppositori scarseggiavano, chiunque capitasse a tiro, alla cieca, tanto per far vedere che non scherzavano. Quel giorno io ero nei Carpazi, dove stavo completando il mio servizio, e quando sono tornato a Bucarest lo spettacolo volgeva ormai al termine. I minatori cominciavano ad abbandonare la città dopo aver ricevuto le congratulazioni del presidente Iliescu e i giornalisti ad arrivare, prendendo d'assalto l'hotel Intercontinental, dove, rinviata la partenza, sono rimasto 3 giorni ad aspettare che succedesse qualcosa, a spiare il formarsi di assembramenti che subito si disperdevano, ad ascoltare le varie voci di cui il nostro albergo era il ricettore, a chiedermi se era meglio partire, rischiando di bucare di nuovo la notizia, o trattenermi, rischiando di non trovare più un buon motivo per partire. In quei 3 giorni ho parlato a lungo con un giornalista americano che era stato pestato abbastanza seriamente ed era come me un appassionato delle storie di fantascienza paranoiche di cui l'invasione degli ultracorpi è il prototipo. Facevamo a gara chi sapeva più titoli di racconti di film e nomi di scrittori, finché arrivati a Philip K. Dick ci siamo trovati d'accordo. I suoi romanzi, che trascrivono con spaventosa lucidità la disgregazione della realtà e delle coscienze che la percepiscono, erano le uniche guide attendibili per un viaggio nella Twilight Zone romena. In un libro di Dick, La penultima verità, dopo una guerra batteriologica, gli uomini si sono rifugiati in villaggi sotterranei in cui conducono da anni un'esistenza atroce. Sanno dalla televisione che in superficie infuria la guerra, che ogni settimana vengono distrutte delle città e l'atmosfera diventa sempre più tossica. Ma un giorno comincia a spargersi una voce. La guerra è finita da un pezzo. E un manipolo di potenti, padroni del sistema televisivo, ha organizzato quella messa in scena solo per far rimanere nell'oscurità una popolazione troppo numerosa e poter vivere da soli e in pace sotto la volta stellata. La voce si diffonde E il peggio è, naturalmente, che è vera. Non è difficile immaginare da quale odio, ignobile e giustificato, siano animati gli uomini del sottosuolo quando muovono la conquista della superficie. Lo stesso odio, l'avevamo visto il giornalista americano ed io, brillare negli occhi dei minatori arrivati a Bucarest per salvare la democrazia. E confesso che al bar dell'Intercontinental abbiamo formulato l'empio augurio che un giorno potesse rivoltarsi contro quelli che lo avevano fomentato. Sono tornato dalla Romania molto scosso e convinto che il modo migliore per dar voce a quello stato d'animo fosse scrivere la biografia di Philip K. Dick. Mi ci sono voluti 2 anni per venirne a capo e in quel periodo mi sono limitato a seguire da lontano quanto accadeva nel mondo, in particolare in quella che allora si è cominciata a chiamare ex Jugoslavia. All'inizio, quando a battersi erano i serbi e i croati, a me facevano l'effetto dei sildavi e dei borduri di Tintin. Contadini baffuti con la Tagelmust arrotolata sulla testa e gilet ricamati, inclini, dopo aver bevuto, ad agguantare il fucile per ammazzarsi fra loro in nome di dispute antichissime, come il possesso di un campo che i serbi, per ragioni comprensibili soltanto a loro, considerano il luogo più sacro della propria storia, poiché è stato teatro della sconfitta più cocente che abbiano mai subito. Vista da lontano, la vicenda sembrava non meno sconfortante di quella romena. Ce n'era abbastanza per concludere che l'euforia del 1989 era ormai tramontata, ma non avendo un'opinione precisa, seguivo le discussioni senza intervenire. Sulla scia di Alain Finkielkraut, la maggior parte dei miei amici si era schierata per l'indipendenza dei croati in nome del diritto dei popoli all'autodeterminazione. All'epoca l'argomento sembrava non ammettere replica. Quando uno vuole andarsene, se ne va. Non si tiene una nazione prigioniera di un'altra con la forza. Alcuni, tuttavia, osavano replicare che, in primo luogo, se si fosse imboccata quella strada, si sarebbe dovuto riconoscere lo stesso diritto a chiunque lo avesse reclamato. Corsi, baschi, fiamminghi, italiani della Lega Nord, e sarebbe stato un bel casino. In secondo luogo, che la Francia era storicamente amica dei serbi, i quali avevano fatto la resistenza contro la Germania nazista, mentre i croati non soltanto erano stati filonazisti, ma filonazisti particolarmente zelanti e sanguinari. Spesso e volentieri, chi ricorreva a questo argomento ricordava la memorabile scena di Caput, in cui Malaparte, in visita al leader croato Ante Pavelic, nota un paniere con dentro della roba grigia e vischiosa. Domanda se siano ostriche della Dalmazia, e si sente rispondere di no. Sono 20 chili di occhi serbi offerti in dono al loro capo dai suoi coraggiosi ustascia, così si chiamavano i partigiani croati, mentre i cetnici erano quelli serbi. Per finire c'era l'ultimo argomento, che a me sembrava il più convincente. Anche a voler giudicare legittima l'aspirazione croata all'indipendenza, bisognava tener presente che il destino dei serbi da lungo tempo stanziati in Croazia si preannunciava tutt'altro che invidiabile. Se in Jugoslavia erano la maggioranza dominante, in Croazia sarebbero stati una minoranza subalterna. La loro preoccupazione era comprensibile, dato che i primi provvedimenti adottati dalla democrazia croata, presieduta da Franjo Tuđman, erano stati la cancellazione delle scritte in cirillico dai luoghi pubblici, l'estromissione dei serbi dagli incarichi amministrativi e la sostituzione della bandiera recante la stella rossa della Federazione Jugoslava con quella a scacchi bianchi e rossi dello Stato indipendente di Croazia, che era stata introdotta nel 1941 dai tedeschi e in quanti avevano vissuto la Seconda Guerra Mondiale risvegliava gli stessi pensieri della Croce Uncinata. Dico tutto questo per ricordare che nei primi mesi dell'implosione della Jugoslavia la divisione fra buoni e cattivi non era netta e, anche se c'era, in tutto questo modo di vedere le cose, una buona dose di propaganda, non era poi un'assurdità considerare i serbi di Croazia alla stregua di ebrei destinati alla persecuzione. Le cose si sono cominciate a chiarire soltanto con la spettacolare distruzione di Vukovar ed è appunto lì che ritroviamo Limonov. Nel novembre del 1991, in occasione dell'uscita di uno dei suoi libri, Édouard viene invitato a Belgrado e, durante una seduta di autografi, riceve la visita di uomini in divisa che gli chiedono cosa sappia della Repubblica Serba di Slavonia. Non molto, per la verità. Si tratta, gli spiegano quelli, di un'enclave abitata da serbi sulla punta orientale della Croazia. Questi serbi non vogliono seguire i croati nella secessione e hanno compiuto a loro volta una secessione. I croati non sono d'accordo, così è scoppiata una guerra e un luogo chiave di questa guerra, Vukovar, è appena stato conquistato dai serbi. Gli va di dare un'occhiata? Édouard aveva altri progetti. Quanto sta avvenendo nel suo paese lo interessa molto di più di quelle liti fra contadini balcanici. Ma pensa che sta per compiere 50 anni e non è mai stato in guerra, e la guerra è un'esperienza che un uomo prima o poi deve fare, così accetta. È talmente eccitato che quella notte non riesce a chiudere occhio. All'alba passano a prenderlo in albergo due ufficiali e i tre imboccano l'autostrada che collega Belgrado, capitale della Serbia, a Zagabria, capitale della Croazia. Dopo lo scoppio delle ostilità, l'autostrada è stata abbandonata dalle macchine dei turisti, ma in compenso è costellata di posti di blocco e checkpoint. Mentre alcuni soldati controllano i documenti dei passeggeri, altri li tengono sotto tiro. E tutti si fanno sospettosi quando si accorgono che, benché russo e per questa ragione presunto filo serbo, Édouard ha un passaporto francese, il che significa cattolico e presunto filo croato. La questione viene risolta da alcuni veementi improperi all'indirizzo di Tuđman e di Genscher, il ministro degli esteri tedesco, che ha perorato presso i suoi omologhi europei il riconoscimento dell'indipendenza della Croazia ed è quindi considerato, a Belgrado, il teorico di un quarto Reich. Ci si giura a vicenda di impiccare l'uno con le budella dell'altro, si beve un bicchiere per sigillare il patto e si riparte. C'è un particolare nella versione dei fatti che gli viene presentata che dovrebbe far suonare un campanello d'allarme. Tutti quei militari acquisiti alla causa serba indossano la divisa dell'esercito federale jugoslavo, che esiste ancora e che in teoria si astiene dal partecipare al conflitto, ma in realtà, composto com'è da una schiacciante maggioranza serba, ha appena bombardato a tappeto Vukovar e tutte le postazioni croate limitrofe. Questo particolare toglie credibilità al parallelo cui ho accennato e che l'ufficiale incaricato di accompagnare Édouard non si perita di ribadire, tra il destino dei serbi e quello degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Sarebbe come dire che per difendersi dai nazisti gli ebrei potevano contare sull'indefettibile sostegno della Wehrmacht. Ma Édouard se ne frega. Quel che gli piace sono i soldati armati, i mezzi corazzati, i sacchi di sabbia, le divise verderame che spiccano sulla neve, i lanci di mortaio che si cominciano a sentire in lontananza. È attraversare di lì a poco le rovine ancora fumanti dei villaggi. È poter credere, in quell'angolo gelido dei Balcani, di essere nel 1941 e non nel 1991. È la guerra vera, quella che suo padre non ha fatto e lui ci è dentro. Vukovar è stata liberata dalle truppe serbe due giorni prima. Non gli fa suonare un campanello d'allarme neanche il fatto che dai suoi compagni la distruzione totale della città venga definita senza nessuna ironia liberazione. Anche Berlino era ridotta in macerie quando è stata liberata dall'Armata Rossa e Vukovar, in passato una bella città asburgica, ricorda in piccolo la Berlino del 1945. Allorché, una volta tornato a Belgrado, si sentirà chiedere ingenuamente da uno scrittore cui sta raccontando la propria avventura in quale albergo abbia alloggiato, Édouard, misurando tutta la distanza che separa da un civile come il suo interlocutore, un uomo che, come lui, ha visto la guerra da vicino, rinuncerà a spiegargli che a Vukovar alberghi non ce ne sono più, case ancora in piedi pochissime e abitabili nessuna. Della città rimane solo una distesa di calcinacci, ferraglia contorta e vetri in frantumi, che i bulldozer cominciano a sgomberare. A causa delle mine è vietato allontanarsi di un passo anche solo per pisciare. Non si vede volare neanche un uccello. Pochi i morti, li hanno già portati via, ma Edouard ne avrà a bizzeffe quando gli faranno visitare il centro di identificazione dei corpi. Cadaveri torturati, violacei, carbonizzati, gole tagliate, odore di carne in decomposizione, sacchi contenenti resti umani che soldati scaricano dai camion. Chi erano quegli uomini? Serbi? Croati? Serbi, ovviamente, risponde il suo ufficiale guida, sorpreso dalla domanda. Per lui le vittime della guerra sono serbe per definizione e i carnefici croati. Forse è vero a 50 chilometri da lì, ma è più difficile da sostenere nei pressi di una città croata letteralmente rasa al suolo dall'artiglieria serba, insomma federale, e dove manca all'appello un quarto della popolazione. Non importa. Edouard certo immagina che su entrambi i fronti ci siano contadini ingiustamente cacciati dalle proprie case, vittime innocenti e guerrieri valorosi. Non crede che una parte abbia completamente ragione e l'altra completamente torto, ma non crede nemmeno nella neutralità. Neutralità fa rima con viltà. Edouard non è un vile e sente che il destino lo ha posto al fianco dei serbi. Con loro si sente a suo agio. Si sente a suo agio la sera vicino ai bracieri su cui uomini mal rasati si scaldano le mani gonfie dalle unghie nere. Si sente a suo agio la notte nella baracca in cui aleggia un pesante odore di stufa carbone, di acquavite di prugne e di piedi. Quei bivacchi e quella fraternità tra guerrieri li ha sognati da bambino. Ma il destino glieli aveva negati. Ed ecco che ora, senza preavviso, lo restituisce a tutto ciò per cui era nato. In 2 ore di guerra, pensa Edouard, si impara sulla vita e sugli uomini più che in 4 decenni di pace. La guerra è sporca, è vero. La guerra non ha senso, ma cazzo, neanche la vita civile ha senso, per quanto è tetra e ragionevole a forza di frenare gli istinti. La verità che nessuno osa dire è che la guerra è un piacere, il più grande dei piaceri, altrimenti finirebbe subito. La guerra è come l'eroina, provata una volta non si può più farne a meno. Parliamo di una guerra vera, naturalmente. Non di bombardamenti chirurgici e porcate simili, buone per gli americani, che vogliono fare i gendarmi in casa altrui senza rischiare i loro preziosi soldatini in combattimenti di terra. Il piacere della guerra vera, è innato negli uomini come quello della pace. Ed è un'idiozia volerli mutilare di questo piacere, ripetendo virtuosamente «la pace è buona, la guerra è cattiva». In realtà pace e guerra sono come l'uomo e la donna, lo yin e lo yang. Sono necessarie entrambe. Elio De Capitani ha letto Limonov di Emmanuel Carrer, traduzione di Francesco Bergamasco, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Jonathan Zenti, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Andrea Cerrato, copyright POL Editeur 2011, tutti i diritti riservati.